Palla Spicchi con Carlo Genta. Di nuovo buonasera a tutti, aspettando Milan Chievo. Eccoci al basket, freschi freschi risultati alla sesta giornata. Beh, ieri freschissimi non sono, con Teramo che vince a Caserta e con Montegranaro che batte Napoli. In questo caso lo scarto un po' diverso rispetto al solito, anche se ridicolo come sempre, 141-82. Oggi all'ora di pranzo cade Milano a Cantù nel derby 64-59. Cade invece questa sera, chi è che cade questa sera? Cade questa sera Avellino a Ferrara. Ferrara vince una partita importantissima 78-63. Cade la Benetton Treviso in casa con la Vanoli Cremona, che conquista una vittoria che credo sarà determinante nella lotta a salvezza, 72-70 per la Vanoli sul campo della Benetton. Dunque, come detto, è caduta ieri Caserta, è caduta oggi Milano, ne approfittano Montegranaro e Bologna, la Virtus Bologna che batte Varese 80-67. E si disegna una classifica nuova. Ovviamente nuova non è la facile vittoria di Siena sull'Angelico Biella 97-65, come poi sentiremo non c'è mai stata partita. Perde la Scavo Sparra Pesaro a Roma 70-61 e a questo punto in zona retrocessione. Attenti a Pesaro, che tra l'altro ha un calendario molto difficile. Questa è la classifica. Montepaschi 42, fa corsa a sé da sempre. Quindi a 28 al secondo posto c'è una coppia, Montegranaro-Caserta. Altra coppia, quarto e quinto posto con 26 punti, con Milano e Bologna a 24. Terza coppia, Cantù e Avellino. Poi Roma a 22 ed è ottava. Fuori dai playoff sarebbero Benetton-Treviso 20, Teramo e Biella 18, Cremona e Varese hanno 16 punti, la Scavo Spar 14, Ferrara 12, lasciamo stare Napoli. Questa la classifica dopo 6 giornate. Andiamo subito a Bologna per la prima squadra che ne approfitta, della caduta di Caserta e di Milano, e Bologna aggancia l'Armani al terzo posto. Stefano Valenti, buonasera. Ciao Carlo, buonasera a chi ci ascolta. Che partita è stata? Che vittoria è stata questa della Virtus? Vittoria facile, partita povera di contenuti, durata diciamo 2 quarti e mezzo. Negli ultimi 5 minuti del terzo quarto il parziale è stato di 15-4, la Virtus ha chiuso lì la partita. Varese aveva provato ad aprirla bene con menti abbastanza sgombre, tirando bene da 3, salendo a più 8 dopo 4 minuti, ma poi di fatto è stato l'unico lampo di una serata in cui si era comunque presentata qui a Bologna con condizioni fisiche molto precarie, in giocatori determinanti come Tusek e Galanda. Thomas continua ad avere problemi con la fascite plantare, Reynolds non è certamente al meglio, insomma Varese probabilmente con la testa più sulle partite realmente cruciali del suo campionato. Pilastrini l'ha detto, ci piacerebbe essere a 18 punti e non a 16, 18 intendendo i punti guadagnati sul campo, poi sappiamo che quel meno 2 pesa. Non credo che Varese rischierà seriamente, però è chiaro che la situazione di stasera non rende felici. Invece è più felice la Virtus, più serena per una vittoria più facile del previsto, perché la Virtus comunque era in un momento in cui si chiedeva realmente che tipo di squadra sia questa Virtus, che stasera ha giocato senza David Moss, perché e qui un problema c'è, la borsita al gomito sinistro preoccupa, finora non è regredita nonostante le terapie, martedì un consulto. Si deciderà cosa fare, parole di Patron Sabatini, cambiamo giocatori solo in caso di infortunio. Stefano, a questo punto, questa vittoria, i risultati di oggi possono trasformare in un rimpianto in chiave Virtus la sconfitta del Forum di una settimana fa. Immaginati se la Virtus avesse vinto quella partita. Ma sì, anche se sai, questo è un campionato in cui il rimpianto forse è giusto che non ci sia, perché tanto prima o poi perdono tutte. La giornata di oggi, che è già analizzato nelle cifre, dimostra come questa stagione offre veramente un'opportunità a tutte. Quindi se è vero che la Virtus ha un rimpianto, magari la domenica prossima capirà qualcun altro. Oggi magari il rimpianto può averlo, non so, Milano, il rimpianto può averlo Caserta. Ecco, quindi siamo tutte lì. Veramente non ci fosse Siena, saremmo a commentare la follia di chi comanda il campionato di basket, non riesce a mettere assieme 2 vittorie in fila. Sì, il successo della Virtus di oggi è un successo secondo logica, la Virtus è al 5º successo consecutivo qui a Bologna, quindi in casa è chiaro che sta mettendo su un fattore campo interessante. Le cifre di oggi raccontano i 20 punti di Collins, che forse li ha creati più nello spot di guardia che in quello di playmaker. Spesso Lardo gli ha affiancato un portatore di palla. 15 punti di Maggioli, 11 di Vukcevic, molto molto sostanzioso, e dall'altra parte 12 Thomas, 12 di Martinoni, che aveva iniziato bene, 12 di McGrath, piccolo ex di questa partita. Però ripeto, partita con poca storia, sono arrivati alla Virtus i due punti che ci si attendeva, non sono arrivati per Varese, che dovrà guardare altrove per leggere dentro un futuro che comunque sarà abbastanza faticoso, diciamo così. Grazie Stefano, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Stefano Valenti. Io vado avanti con i numeri e vi do i risultati della Lega 2. Sono questi: Venezia batte Reggio Emilia nell'anticipo di mezzogiorno 76-59, quindi Iesi batte Imola 89-87. Pistoia supera Pavia 78-73, vittoria interna anche per Veroli su Scafati 72-67, vince Vigevano su Latina 70-52, vittoria esterna per Brindisi a Udine 86-79, poi le altre due sono vittorie casalinghe, fattore campo rispettato praticamente ovunque. Casal Pustrengo batte Rimini 75-73 e Casale Monferrato batte Banco Sardegna Sassari 73-61. Già che ci siamo con i numeri, vi do anche quelli di una splendida Ferrara che praticamente non lascia mai in partita Avellino, salvo il primo quarto 21-18, poi all'intervallo già 42-33, e a partita che aveva preso una direzione precisa, terzo quarto 66-45, e lì la partita era finita 78-63 finale per Ferrara. Un grande Luke Jackson, 22 punti, 24 di valutazione, anche se non ha tirato benissimo da 3 punti, solo 3 su 8, ha preso 9 rimbalzi, e poi un mostruoso Sherrod Ford, 22 punti, 8 su 8 ai liberi, 12 rimbalzi, 32 di valutazione. Sull'altro fronte poca roba in realtà, 14 punti per Shavon Trautman, 11 per Lowers e 10 per Porta, ma come detto Avellino mai in gara realmente in questa partita che per Ferrara valeva la vita. E la situazione in fondo alla classifica diventa anche piuttosto difficile da leggere. Tra poco ci facciamo raccontare della gara di una delle protagoniste della lotta retrocessione, cioè la Scavo Sparpesaro. Però prima, rimanendo sulla gara di Ferrara, voglio farvi sentire il patron ferrarese, presidente di Ferrara, Mascellani. Quello che penso è che non siamo solo noi due a fare la gara per la seconda retrocessione, c'è un gruppo di squadre un po' in difficoltà, e che non comprende soltanto Ferrara e Cremona, c'è Pesaro che non si capisce dove trovi i suoi equilibri, la stessa Varese sarà qui fra 15 giorni, sarà un altro spareggio, un'altra finale. Questo è un campionato molto bello, peccato che gli manchi la testa e la coda, che siano due capitoli scontati. Vedremo alla fine della corsa, tireremo sulla testa e vediamo dove siamo, come si dice. Ma a questo punto, se c'è corsa 2, questo era Mascellani, patrono di Ferrara, se c'è corsa 2 non è più a questo punto tra Ferrara e Cremona, dopo la vittoria di Cremona a Treviso, ma è tra Ferrara e Scavo Spar Pesaro, che mi sembra in caduta libera. A Roma oggi ha perso 70-61, quale faccia avesse ce lo racconta Fabrizio Fabbri. Beh, diciamo che è stata una Scavo Spar dai due volti, perché dopo una partenza abbastanza incoraggiante ha subito poi il ritorno di Roma, è sembrata andare sotto inesorabilmente, poi invece nell'ultimo quarto in realtà ha reagito ed è riuscita a rimettere il naso avanti con una tripla dell'ex Cinciarini. A quel punto è stato Jacopo Giachetti a prendere in mano le sorti della squadra di casa e a guidarla alla vittoria in una giornata assolutamente non facile per Roma, lo dicono le cifre. Roma ha tirato da 3 punti con una percentuale da brividi, perché 4 su 22 per il 18% la dice lunga sulla percentuale nel tiro pesante della squadra di casa, e alla fine a pesare sulla vittoria di Roma con grande protagonista Jacopo Giachetti, autore di 12 punti dei 15 realizzati nell'ultimo quarto, sono state sicuramente le 29 palle recuperate da Roma. Qui si è parlato, oltre che di salvezza, anche di mercato, si continua a parlare di mercato, perché sulla porta sembra esserci Bobby Dixon, ma quella di Igor Rakocevic sembra essere più di una voce. Il giocatore è stato realmente offerto a Roma. Qualcosa potrebbe muoversi, certo sarebbe un investimento per un budget che sapevamo era stato limitato, sarebbe un investimento di grossissimo peso, per cui la voce c'è, la raccogliamo tale com'è. Bobby Dixon in realtà l'accordo l'aveva trovato con Roma un mese fa, adesso ballano 20.000 euro perché Dixon vorrebbe la cifra per cui si era messo d'accordo un mese fa, Roma vorrebbe invece decurtare questo mese. Sì, e, sì. E casa Scavolini, io sono d'accordo con Mascellani, avevo parlato con Mauro Montini, il general manager di Roma, di Pesaro, prima della partita, era seriamente preoccupato per la corsa per la salvezza e mi pare che la squadra di Pesaro in questo momento faccia fatica a trovare delle certezze. Oggi discreta la partita della Scavo Spar, ma ha pesato, ripeto, tantissimo la percentuale al tiro da tre di Roma, che alla fine ha portato alla vittoria della squadra capitolina, sesta vittoria su sei partite per la Virtus Lottomatica Roma in casa dall'avvento di Matteo Boniciolli. Però lì c'è una certa continuità. Grazie Fabrizio Fabri. Palla spicchi. Mentre dopo 30 secondi di Milan Chievo, Pellissier si mangia un gol solo davanti ad Abbiati, credo in posizione ampiamente regolare, infatti nulla era stato segnalato. Torniamo a parlare di basket. Nessun dubbio sulla vittoria di Siena. Io, venerdì era qui con me Marco Tripati, presidente di Biella, l'ho pregato di provare a battere Siena, quantomeno a rimanere in partita, non mi sembra mi abbia ascoltato. Massimo Sollazzini. Sì, beh, obiettivamente la partita è chiusa a me prima di quanto abitualmente avviene al Palascavo, sostanzialmente già al primo quarto quando si è appiattato un break che è diventato un 23-0 e quindi già al secondo quarto la partita era chiusa. Vecchi ha detto ci abbiamo provato ma non è questo quello che dobbiamo fare, non sono queste le partite, è sembrata una biella di lavoro in corso sostanzialmente. Biella di lavoro in corso, biella con... come ha giocato Chessa? Chessa abbastanza defilato, se vogliamo nominare un giocatore sostanzialmente è a sorpresa forse Matteo Sotagna, che ha avuto 8 punti, 2 su 3 da 3 punti, sostanzialmente una partita al di sopra delle sue possibilità, visto che Becchi ha precisato non essere in forma questo giocatore in questo frangente. Chessa, così come Aradori, si è visto ben poco, diciamo, tutto l'arco della gara. Perfetto, grazie a Massimo Sollazzini. Dunque Biella che non rimane in partita praticamente mai sul campo della dominatrice di queste delle recenti stagioni. Flavio Tranquillo, buonasera. Buonasera. Ciao Flavio, quali impressioni hai tratto dal derby vinto da Cantù con una Milano ancora offensivamente sotto la soglia minima, onestamente, di presentabilità dei 60 punti? Beh, direi che il primo collegamento da fare è quello dei 60 punti o giù di lì, e la squadra teoricamente, sommando il valore teorico dei singoli giocatori, non dovrebbe farne 55 nel quarto di finale di Coppa Italia o 59 oggi, però in questo momento è una squadra che riesce a esprimere quel tipo di potenziale offensivo, è una delle ultime per tiro da tre, una delle ultime per rapporto tra punti e possessi, tutti gli indicatori d'attacco sono pessimi per certi versi. La classifica è semi-miracolosa per il tipo di pallacanestro che si gioca in Italia, rapporto a quelle cifre è una mini provocazione naturalmente, però non è lontana dal vero. Sì, non c'è dubbio. Sentiamo cosa ha detto Bucchi alla Sky nel dopopartita. È cambiato dal 23-24esimo minuto, dove abbiamo smesso di far canestro anche con tiri buoni, aperti, che sono quelle che ti danno fiducia, sono quelle che ti danno il ritmo anche in difesa. E purtroppo quando succede questo, cioè la squadra ha perso un po' di ritmo nel tiro, perché alla fine credo che tutti i tiri presi dall'arco erano buoni, loro hanno chiuso un po' di più l'area come era normale che facessero, in quel caso lì devi uscire a partenza da fuori, onestamente sai, purtroppo devi aprire la scatola come si dice, non abbiamo fatto canestro e alla fine ovviamente hanno avuto grande vantaggio perché dentro l'area hanno giocato molto duro e fuori sul perimetro abbiamo sbagliato tiri aperti, che può accadere, ma purtroppo ovviamente ci ha condannato. Questo era Piero Bucchi, allenatore dell'Armani Milano. Flavio, la sensazione è che sentendo l'aria da Roma è che sia Milano che Roma, tu hai sempre detto con mille ragioni che la storia e la faccia di queste due squadre è grosso modo simile. E adesso ultimo appiglio, di nuovo il mercato. A Roma si parla di Rakočević, a Milano ha perso il conto di chi, ma tanto non è così importante. Non è con le pezze messe a seconda metà di marzo che si costruisce qualcosa. No, questo direi che sia sicuro, anzi, inizialmente, se devo dire la verità, l'impressione è che più ne metti o più cambi certo che Rakocevic piuttosto che Gordon o chi per lui per Milano, tutto possono essere chiamate tranne che toppe in sé per sé. Sì, sì. Però in una situazione in cui uno dei meno produttivi, per dire, dell'Armani Jeans è Hacker, che mi sembra decisamente per classe e talento teorico uno dei primi cinque giocatori del campionato, erano state su un contesto, presumo, più ampio e più vasto che non il valore del singolo giocatore. Flavio, perché Hacker non si inserisce a Milano? Da dove nascono questi problemi? Dal fatto che non c'è una squadra e quindi è difficile inserirsi in un gruppo che ha cambiato troppe volte faccia, derivano dalla lunga assenza per infortunio ed è una banalità? Da dove deriva questa impossibilità di Milano di rendere produttivo un giocatore del talento di Hacker? Guarda, io non credo che Hacker sia, come ho detto, uno dei primi cinque giocatori per livello teorico, sottolineo teorico, del campionato. Non credo che Hacker abbia nella testa, da nessuna parte, non l'ha avuto al Barcellona, non l'ha avuto all'Olympiacos, la cattiveria, la continuità, la fisicità, scegliete voi il termine da usare, per essere quel giocatore che ti fa X punti a partita con regolarità per X giornate. E soprattutto un giocatore che parte già da questo tipo di situazione, che secondo me avverte, percepisce che non gli viene richiesto di essere questo, ma gli viene richiesto di essere un pezzo della squadra, fa il pezzo della squadra. Quindi se manca questo a Milano, è discutibile, è possibile, però magari è proprio così, io credo non sarà mai Hacker, indipendentemente da quello che puoi fare con Hacker. Se devo scegliere un risultato tra quelli di oggi, dal Masco pesco la vittoria di Cremona a Treviso. Cremona che non ha mai mollato la partita, 37 pari all'intervallo, e poi è stata brava a portare a casa 72-70. Una vittoria credo che cambia moltissimo negli equilibri in fondo alla classifica, perché sentivamo anche prima Mascellani, la lotta non è ristretta a 2 Ferrara-Cremona. No, Cremona a questo punto mi sembra un po' sopra, quella messa peggio mi sembra Pesaro. Il calendario di Pesaro, dall'occhiata che ho dato ieri pensando a Ferrara e dintorni, mi sembra quello più difficile. In più Pesaro ha anche la complicazione, tra virgolette, della Coppa che sta giocando, tra l'altro con buoni risultati, però io credo che più che mai sarà una questione di quello che succederà nelle ultime 3-4 giornate con grande equilibrio. Certo che anche sul fronte Treviso il lavoro di Repe già va a singhiozzo, mettiamola così. Va a singhiozzo, adesso c'è anche l'infortunio di CJ Wallace, quindi ulteriore cambiamento, direi che arriva Maurice Taylor, non so se sia ufficiale ma penso che sia pressoché certo, direi che in sostanza possiamo prendere i discorsi già fatti, cambiare i nomi, invertire i fattori, ma il prodotto non cambia. No, non cambia, ed è un campionato in cui a turno, come diceva prima Stefano Valenti, perdono tutti. Adesso Montegranaro si è arrampicata al secondo posto della classifica approfittando della sconfitta di Caserta, però sono equilibri molto fluidi, compresa quello per la lotta all'ultimo posto playoff, che per Roma è particolarmente importante, ed è tutt'altro che certo. Roma 22, Treviso 20, chi è davanti, Cantù e Avellino ne hanno 24, insomma, direi al ribasso, ma un campionato che nella pancia è equilibrato. Assolutamente, è al ribasso, su questo non si discute, però è divertente, perché è aperto a un milione di combinazioni, si tratta solo di vedere quanta parte è piena e quanta parte è vuota di quel bicchiere. Grazie Flavio, ci sentiamo venerdì. A voi. Ci sentiamo venerdì con Palla Spicchi, grazie a Flavio Tranquillo. Io volevo invece darvi un paio di numeri, vi ho detto della vittoria, ma volevo darvi un paio di numeri sul risultato che ho pescato dal mazzo, cioè la vittoria della Vanoni Cremona a Treviso. Cremona che ha vinto ritrovando la mano e la vena di Troy Bell, 20 punti, miglior marcatore tra i cremonesi. È tornato a far canestro da 3 con buone percentuali, 5 su 9 per Troy Bell, 25 di valutazione. Un fattore senz'altro della partita è stato Formenti, 12 punti in 19 minuti, un percorso quasi netto al tiro, 2 su 2 da 1 e 3 su 4 da 3 punti. Cremona ha avuto 4 punti da rientrante Cusin in 12 minuti. Giocava anche Milicic, che è appena tornato nel nostro campionato, a porto di sostanza, 21 minuti, 5 punti, 8 rimbalzi, come al solito per un giocatore preziosissimo. Sul fronte Treviso, detto appunto dell'infortunio di Wallace, ci sono 21 punti per Kelvin Rivers, 11 per Nicevic, 12 per Montejunas, 11 per Ungheri Nil, molto appannato, soltanto 1 su 8 nel tiro da 3 punti, anche se 5 rimbalzi. Insomma, lavori in corso a Treviso e assetto che cambierà ancora in vista dell'ultimo sprint per i playoff. Dunque abbiamo chiuso qui, questo per quanto riguarda il basket. Io, già che ci sono, vi do un aggiornamento su Milan-Chievo che verrà strettamente monitorata nel corso della serata. Siamo al decimo, 0-0 il punteggio, però vi ho detto in apertura, dopo soltanto 30 secondi, di una grande occasione avuta dal Chievo, sventagliata da centrocampo, Pellissier pescato in posizione regolare, tu per tu con Abbiati, bravo il portiere del Milan nello sventare questa minaccia. Con la Roma che ha pareggiato 3-3, l'Inter alla finestra, vediamo se il Milan davvero ha le energie per avvicinarsi a un solo scalino dall'Inter capolista. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Domani dalle 2 alle 3 naturalmente c'è Gigi Garanzini. Per quanto mi riguarda ci sentiamo con Palla Spicchi venerdì dalle 2 alle 3. Buona serata.